Andiamo qua se c'è qualcuno. Ciao Maria, ci sei? C'è qualcuno qui? Vediamo un po' se mi ascolta qualcuno qui in PML. C'è qualcuno? Avanti, chi è? Avanti il fischio. Gio Maria, ci sei? Hola, hola, hola. C'è qualcuno qua? Tutti morti sono. Prova. Hola, sì. Va bene? Marino. Avanti? Marino, mi ascolti? Sì, ti ascolto, cioè leggermente un po' di QRL, appena, eh? Leggermente? Leggermente un po' di cosa, cioè di QRL, ma forse sono io, dai. No, la modulazione è chiarissima. QRM, ma che antenna sto usando? Io sto usando la professionale, sto usando. No, la modulazione è chiarissima. Quando sono levato, altri 2 metri di tubo adesso, così. No, era più bassa, gli ho messo 2,50 m di tubo zengato sul tetto, però non in giardino, sul tetto ce l'ho le vie lì, già va bene, lascia. La modulazione com'è, bassa? No, è la tua, bella forte, bella potente. Andare, e beh, cosa stai combinando, Mari? Niente, ma mi sono appoggiato e stamattina sta facendo una cosa. Sono attontonato. Oh, Iuia. Cazzo, visto là dove ti ho mandato il video? Sui 7100 qualcosa, sì. Perché tutta la stanno parlando. Cazzo, dalla base di Lugano, figurati. Sì, ma come stai da... va benissimo, come dice Vittorio, ultimo. No, io mi sono... ce l'ho spento qua, stavo riposando, se no io lo lascio sempre acceso, lo lascio di tutto a 40, capito? Più o meno. Oh, non mi ha ancora chiamato quel coso, come si chiama Salvatore. Aspettavo la chiamata ieri di dirmi se l'apparecchio funzionava. Non mi ha ancora chiamato, Cazzo che bastardo, cazzo come l'hanno fatto? Quelli sono proprio da cazzo da prendere e massacrarli di botta quella gente lì. Io gli ho detto subito, fa cortesia, perché lui mi ha detto, no, non fa nulla questo colpo, non interessante che funzioni. Appunto gli ho detto, interessante che funzioni, ma fammi sapere se funziona. Ma io ho ripetuto 2 o 3 volte, già ti faccio vedere come quello che gli ho detto. Sì, adesso sta pensando alla staffa perché va messa in una jeep, ti farò sapere, nulla va, non mi ha telefonato ma nulla oggi. Però oggi ora in chiave, addirittura vuol dire che funziona. No, io oggi non sono uscito per nessuna cosa, ero tornato a casa, non ne voglia. Ehi, se non funzionava già ti chiamava, chi è che vuole entrare avanti? Ehi, se non funzionava Marie, vedrai che già ti chiamava. Cazzo. Però è un peccato, sono animali, sono come il cazzo buttano i pacchi, sono della gente di merda, oh. Questi corrieri proprio, ce ne sono corrieri di merda, vogliono presi e sparati, sigillato è già uno scazzo, ha messo del ben sigillato, se l'ho messo, anche della gomma piuma, l'ho riempito la gomma piuma, avevo un pacco di gomma piuma a pizzi. Vabbè, perché la usa anche mio nipote perché fa il portiere e lo usa mia moglie per riempire per le gambe, per le braccia. L'ho riempito proprio, fatto apposta proprio. Lì invece, quello è il colpo che ha preso, è colpo, è un bel colpo. Solo io so che le sbatto da un coso all'altro, magari non è qui, magari è su, magari è sopra. Il pacco è andato a Reggio Calabria, figurati. Quello è qualche pacco pesante che ci hanno buttato sopra. Col peso, cazzo, è andata a finire nel punto dove era più delicato, cazzo. Perché quello lì, qualche colpo, come hanno appoggiato roba sopra, sicuro. Eh sì. Ok, Emanuele, ci vediamo dopo, là. Che... Ok, a più tardi, Emanuele. Ehi, ciao, Mario, scusa se ti ho disturbato. Ah, cosa scusa, quando ti capita, se non so già nulla, non mi costa nulla, vai tranquillo, Emanuele, non c'è nessun problema, niente scusa, ciao. Ciao, Mario, a dopo. Ciao. Buonasera, boss, buonasera, ci vediamo dopo, Claudio. Ciao Mari, ciao, a dopo. Cosa hai combinato, Manuel? Oi, Cla, sono salito sul tetto, mi ho messo 2,5 metri di tubo zengato, ho salito sulle vie le U. Segnali geniali. Sono a Sassa, io sono a casa, sì, fondo scala. La modulazione come Sparvi? Ottima. 10. Ma il segnale, io mi ricordo l'ultima volta che ti ho sentito qua a casa, eri... 5, 6, 7, adesso sei fondo scala. Sei, l'ho tirata su, non mi piaceva com'era, era in mezzo all'antenna del televisore e non mi piaceva così. Stamattina sono salito verso le 8:30 e sono alzato 2,5 metri di tubo, zingato e l'ho tirata su. Minchia, fondo scala, sei passato da 7 a fondo scala, 9 più 30. Andare, e tu qua, rientrato? Sì, Sassari, a posto. Finite le vacanze. Sì, finite le vacanze, ui. Ah, non sai che quella roba là mi sta facendo bene, qua? Ma non avevo dubbi, Manuel. Cazzo, fate vai a me, mi pare siamo fatti tutti di garri, eh. Se il problema è quello che c'ho io, stai pur certo che ti fa bene. Continua la terapia come la stai facendo, perché quella è un'ottima pastiglia per le ossa. A me mi ha, guarda, risuscitato, e a dire poco. No, la sto prendendo, adesso è da 2 giorni che la sto prendendo, un po' ce l'ho ancora, però il dottore mi ha detto di fare la cura. Poi se stai bene, di prenderne solo una al giorno. Esatto, come ho fatto io, partenza 2, poi come ho finito, ho fatto una settimana piena 2 e poi a 1. Adesso la sto prendendo, in un mese la sto prendendo, diciamo, tre volte, capito? Una solo però, e va benissimo, tu vedrai come ti rimetti in piedi. Ma cos'è che ti volevo dire, Cla? Ti devo dire una cosa, mi è uscito la gabbia. Ma tu avevi il problema sempre di ernia del disco? Certo che sì, e ce l'ho ancora, perché se non ti operi ce l'hai, però non infiamma. Quando stai per avere il dolorino leggero, dimmi una battiglia, capito? Perché secondo me tu ce l'avevi molto molto infiammata, quindi devi farla a 2 per tutta la settimana, forse non ti basta. Quando vedi che già riesci a fare delle cose un po' meglio, camminare meglio, eccetera, ne prendi una. Però non mollare. La stessa cosa vale per Tonino. Ma Tonino ha preso le altre diverse, sono diverse alle mie. Ha preso quelle generiche. La generica non serve a nulla. Io la giudico a Iltral, quella originale, quella con la scatola rosa, quella lì ci vuole. Non la generica, la generica non serve a nulla, voi in bottini, pastiglie, quelle che stai prendendo tu deve prendere lui. E vedrai come si mette in sesto. Infatti a lui non le stanno facendo niente, a me gli ho detto, ma strano, a me in 2 giorni mi ha già... Mi accorgo che mi stanno facendo bene perché mi sa camminare tutto quanto, mi fa di meno male che mi tirano i nervi delle gambe. E a lui non è nulla proprio. E a lui nulla perché ha preso il generico. Ho sentito qualcosa sotto di te, però sei talmente forte che non passa. Chiunque sia, avanti se vuoi entrare, però non passi, eh. Non passi. Manuele, arrivi più forte anche di Gio Maria, eh. Sei fortissimo veramente. Evidentemente la mia antenna ti vede. E beh, cazzo, qua, era proprio in mezzo all'antenna del televisore, proprio attaccata all'antenna del televisore. Adesso ci ho messo queste 2,50 metri di tubo, zingata andava, al manco si vede l'antenna. Sì, ma quella Sassari io vi vedo tutti, quindi arrivi veramente molto molto forte. Poi questa radio è una radio professionale, quindi il segnale è proprio preciso. Sì, 9 più 30 sull'analogico dell'820H. Va bene che va bene. Tonino, l'hai sentito? Stamattina ci abbiamo mandato il buongiorno come facciamo sempre, però non l'ho sentito ancora. No, non l'ho sentito, no, non l'ho chiamato per non rompere le balle, magari si voleva riposare, magari sta riposando adesso, no, e non l'ho chiamato per quello, lo chiamo più tardi. Ehi, lui si alza presto, anch'io stamattina, tra, insomma, abbiamo fatto un po' di pulizia generale, messo a posto un po' tutte le cose, ho dato una pulita al piazzale e poi abbiamo caricato tutto. E abbiamo pranzato qua, capito? Abbiamo pranzato qua, abbiamo lì si è pulito tutta la casa, io me ne sono uscito un po' col cane, insomma siamo tornati alla normalità, ho acceso un po' le radio che sono rimaste qua, soprattutto il 430 e il 440, ho visto che funzionano ancora, quindi insomma, 2 mesi di stand by e più gli è servito, dai. Ascolta, oh, ti devo chiedere una cosa, se si può fare, se dovrei ordinare quella roba lì, il duplex, riesci tu a ordinarmelo? No, io non c'ho nickname, io sul computer sono, praticamente non posso ordinare niente, ma non perché, a parte che non ho la carta, io non ne uso di, faccio tutto in bonifico, oppure bonifico, eppure carico la carta, mi danno il numero e gliela carico, capito? Però non ho un nickname, non posso ordinare niente io perché non sono iscritto su quelle cose lì, è iscritto Luca, mi pare, e anche Luca Flipper mi pare che te la possa ordinare. Quelli insomma che ordinano su internet, dai, Marco Condor, quella gente lì, io non ordino niente. Vabbè dai, se vedo un po', di vedere un po' chi, a chi posso dirlo, perché io stesso non ce l'ho la tessera per, e non sono neanche iscritto. Non ci vuole la tessera, non ci vuole niente, ma noi tanto ti chiedono il pagamento. Tu le dici cosa c'hai, la PostePay, ok, dammi il numero, ti carico la PostePay, quando ti arriva la ricarica mi spedisci il pezzo, capito? Devi così, io faccio così quando devo ordinare, però su via computer non posso ordinare diretto, capito? Prendo il numero dal computer, chiamo, per esempio, io l'avevo preso la Media Globe, ho chiamato la Media Globe me l'ha mandato così, mi hanno dato il numero di riferimento, però mi sembra che avevo fatto un bonifico, sì, un bonifico avevo fatto, non so se loro lavorano anche con la PostePay, bisogna chiederglielo, devi prendere il numero di telefono dove l'hai visto, chiamare e dire a me serve questo pezzo, il pagamento come lo volete, sappiate che io non ho PostePay, se ce l'avete voi datemi il numero, ve la ricarico e mi mandate l'ordine. E adesso poi riguarda e vediamo un po', che così almeno lo ordino e perché mi serve. Per mettere quella T me l'hai sconsigliato tu di non metterlo, perché sennò mettevo un T, solo che ogni volta devi staccare, devi attaccare e sono due rotture di balle. No, quando c'è una radio di banda non ce ne vogliono, ci vuole il duplexer, Emanuele. Assolutamente, in modo che puoi ascoltare tranquillamente nella frequenza che vuoi e parlare in quella che vuoi. Non rientra in nulla, sono dei commutatori d'antenna fatti apposta diretti per le V e per le U. Io ce l'ho su questa radio a casa, qua. Ce l'ho perché faccio V e U, capito, in contemporanea e quindi devo averlo. Poi gli altri sono su antenna diretta, capito? Va bene che va bene. Ottimo comunque segnale, ottimo lavoro. Sì, ci ho messo un'oretta, ho staccato tutto, che cazzo l'avevo attaccata così, tanto per fare due chiacchiere, era ben meglio, l'avevo attaccata. E c'avevo questo tubo zingato in cortile, nuovo, 2,50 m. Ha giovato, va, quasi, stamattina, visto che stavo un po' meglio, ha già approfittato, si è gasato, piano, tanto c'era anche fresco e si stava bene, l'ho tornato a rismontare da quel palo là, a giubbucchio liscio, e adesso già si vede almeno adesso l'antenna. Prima era imboscata in mezzo all'antenna del televisore, pensa a due quanto era bascia. No, adesso vai bene, c'hai anche più ricezione sicuramente, va bene. Ma non ne approfittare ancora, Emanuele, a metterti a fare, perché altrimenti pigli do raggoppi. Dai il tempo che sfiammi bene la lombalgia e poi puoi metterti a fare qualche cosettina, perché a me mi ha fottuto. Come stavo bene, mi sono messo a sistemare le antenne sul tetto, Castagimani non riesce a fare anni più. Lo so, no, di roba pesante di sicuro non ne posso più, cazzo, già ne so ancora caldardo. Basta, ho preso un po' di roba pesante, sarà un mese fa, come ho tirato questo cavolo di roba, per carità, ho sentito crack, no, sono rimasto bloccato, crack. Non ce la facevo neanche a camminare, mi Tonino già lo sa come stavo camminando in quei giorni lì, tutto piegato. Sì, infatti, non ne approfittare, fai le cose piano piano, con calma, capito? Tu adesso fai questa bella cura e vedrai che mi dirai, avevi ragione. Tonino, se prende quelle lì e segue la cura, capito? Una prima di andare a lavoro e una a cena, come stai facendo tu, capito? Tanto lui magari a mezza mattinata si mangia il panino, poi se 9 alle 10 a chirurgico che uscì e si prende la pastiglia, tu vedrai che in giro di qualche giorno anche lui si mette in sesto. Io adesso sono già 2 giorni che la prendo, mi sta veramente facendo bene, infatti non potevo stare in piedi perché mi bruciavano già le gambe, appena stavo in piedi in tempo di 2 secondi mi facevano male già le gambe, mi dovevo subito sedere, adesso cammino. No, non dico che non mi fa male ancora, però appena mi fa male, però inizio già andare a camminare, capito? Cazzo, l'altro giorno sono andato per farmi fare l'impegnativa, tu non ci crederai, mi sono fermato roba di 10 volte per andare dal dottore, non ce la facevo a camminare. Sì, lo so perché anche a me faceva così. Io al lavoro stavo molto in macchina, quando scendevo la macchina per fare qualche intervento, qualche verifica, mi si mugiava nei ranchi e quindi mi ero abituato, tutte le mattine me la portavo appresso, come arrivavo al lavoro timbravo, andavamo lì a Marrisa, rifornitore, facevo colazione, cappuccino, caffè macchiato, mi mangiavo una pasta e mi prendevo la pastiglia tutti i santi giorni, per settimane intere, e lavoravo, guarda, da Dio, perché non mi veniva il dolore, invece così mi veniva il dolore. Lo so, è brutto veramente, infatti a Torino gli ho detto, è ben passato il tempo, non mi offendi nulla, mi va, mi sembra strano, gli ho detto, ma che pastiglia hai preso? E ho preso quelle là, in pastiglie però non sono generiche, ancora, dovevi prendere quelle originali, io ho preso quelle originali e mi hanno fatto bene, ho pagato 4,60 euro. Ma io gliel'ho detto, prendi quelle, no, non generiche, non imbustine, pastiglie, hai visto quanto sono piccole, sono delle pastigliette piccoline, un goccettino d'acqua e via. Io addirittura la prendevo, mi lasciavo appena di caffè, la prendevo direttamente col caffè, poi mi bevevo la mezza gasata e si varava. No, quella ci vuole, se tu non prendi la generica, sembra così, ma che ne dicano, la generica è un altro tipo di cosa, deve essere di pastiglia, non lo so, loro dicono che è la stessa, per me non è la stessa, quindi, vabbè, comunque, tutto a posto. Vabbè, stavo un po' pulendo qua, c'era la polvere tutta sotto le radio, tutto sopra il coso, perché ho abbassato le avvolgibili, però le finestre erano aperte, capito, per circolare l'aria, quindi sicuramente il vento. Ma Giovini da Valla ne tamme tutti, no, pensa alla radio, computer, tutto. Adesso niente. Siamo qua. Vabbè, dai. No, comunque si sta bene oggi, bella dieta. Si sta bene, ha calmato, è cambiato tanto, ha calato tanto la temperatura, Da come tirami, cazzo si buddha, ripira, avanti a scasi, Questa, oggi siamo a 25 gradi, la più alta dovrebbe essere tra sabato e domenica intorno ai 28, 27-28, quindi diciamo che tutta la settimana c'è questa temperatura. Ti dico che ieri notte c'era freddo, Ieri notte c'era freddo, ho fatto chiuso tutto, c'era freddo in campagna. Ho detto, partiamo in Ogasarrada e ce ne torniamo a casa, e ce ne siamo rientrati. Lì c'è mia figlia o mio genero, sono rimasti, casa Giulia, quindi. E niente, adesso vediamo, insomma, se si può ancora fare qualche altro giorno di sole, che non sia molto caldo, ma non penso comunque. No, mi sa che il caldo ha finito. Mi sa che il caldo ha finito. Io mi auguro che rimane così. E a chi lo stai dicendo? Io vorrei tutta l'estate a questi livelli. Soleggiata, però con sempre un po' di maestrale, con temperatura che non supera i 30 gradi. Perché se stai intorno ai 27-28 stai bene e non sudi né manco. Infatti, io guarda, quando arriva l'estate, io non lo sopporto più il caldo. Infatti al mare che hanno proprio nulla, proprio niente mare quest'anno, nulla. L'anno passato sono andato due buchi in croce. Io niente, io solo piscina quest'anno. Niente mare, abbronzatura leggera, insomma un po' preso colore, ma gli altri anni ero un negretto. Ma non mi interessa, io non ci vado a morire dal caldo al mare, poi con questo problema che c'è sempre il rischio. Ma c'è quando sei a casa tua è un'altra gubba. Vabbè. Comunque, passato bene lo stesso, dai. Riferraffa, trascorso l'estate alla grande. E passa da buru pure a occhio. Tra poco siamo a Nadari. Pensa a due. Oggi ne abbiamo già due, mi sembra, due o tre, settembre, non so. Comunque, va bene. E vabbè, dai. Vediamo un pochino. Ok, Manuel, dai, metto a posto ancora qui. Comunque le radio sono accese. Va bene? Se ci sentiamo dopo. Questa è accesa. È già in posizione. Anche le altre. Vediamo se riusciamo a farci due chiacchiere. E se no pazienza. Sì, avrà entrato pure il donino più tardi. Comunque, dai. Mi ha detto che va bene in tutto, okla, come segnale e come modulazione, dai. Ha trovato una cosa buona lui, dai. Pensavo biccio. Te ne accorgi anche al mio segnale, se magari non era. Vabbè, qua da Sassari sicuramente ti arriva molto forte, perché questa è un'antenna grande, a 40 metri d'altezza. Però te ne accorgerai anche con Tonino come ti arriva sicuramente. Se non ti arrivava a fondo scala pieno, adesso ti arriverà a fondo scala pieno, capito? Quindi te ne accorgerei anche con gli altri, c'è più ricezione, più tutto, perché quelle antenne, te l'ho detto, devono lavorare almeno a 2-3 metri da terra, capito? Se no è un casino, non irradiano. Io lo stesso, quella in campagna è molto bassa, adesso mi devo decidere anche quella lì di metterla come i cristiani. La Mantova l'ho sistemata, messa bene, su tubo, su staff, eccetera. Adesso mi dovrò decidere e sistemare anche quella lì, però vediamo, vorrei cambiarla, vorrei mettere una 300 anziché una X50, capito? Più performante, c'ha più ricezione. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, Manu, finisco qua e poi magari ti richiamo, ok? Sì, già lasciaci anche io, dai, che faccio alcune cose qua in camera. E ci sentiamo dopo, dai, già è accesa anche qui. KK, a dopo, ciao. Ciao. Marino. Umido. Marino. Ciao Marie, a Vesese? Cardellino? E guarda che c'è Cardellina. Uè, Marina, mi ascolti, sì? Sì, come no, a Puglia, capita. Con la lecce buio, amico, la lecce ti accorto. Andava, meglio così. E tu non mi accorti con la lecce a me? Cos'è? Con la lecce tu a me non mi accorti. No, con la lecce no. Allora un cosa, con un naso. Ma dove è caciuto sì? Ma dove è caciuto sì? Ah, sono qua giù, un attimo. Mi ascolti, sì? Te l'ho detto, con le orecchie, sì. No, lo sai perché? Stamattina sono salito su. Mi ho messo su questo 2,50 metri di palo, zingato. E l'ho alzata questa antenna qua, perché era proprio in mezzo all'antenna del televisore. E quindi adesso è libera, dai. Ho capito. Ma non è dire in frequenza. Non è dire in frequenza che non si può, che non si può fare, non si può usare l'antenna con questo, devi usare sempre il gommino come ce posso io e come fa qualche altro. Poi quelli che usano l'antenna lasciali fare, ma che non si può fare, compreso. Lo so. Va bene, comunque almeno ti ascolto più bene, ti ascolto bene. Non era quello il discorso. Bisogna sempre l'ascolto, bisogna sempre delle persone, magari, oppure qualcuno fa anche la soffiata. La gente malvagia, no? E tu, giù, cosa stai combinando? Sì, mi stavo ascoltando sul canale 10, stavo ascoltando. Niente di più, ma solo un ascolto era. E chi c'è sul 10? C'è Claudio e Gianni. Non c'è più nessuno nella frequenza, no. Non c'è più nessuno. Lo so, infatti, va bene così, cosa, intanto gli dà ragione. Non me la vedo più io, non me ne frega più niente. Se c'è gente che ascolta quando voglia parlo, se no pazienza. Sono 48 anni e mezzo che sono in frequenza, ti puoi immaginare. Ha già cominciato dalle mani praticamente. E due giorni, cazzo, sì, l'anno passano giù, gli anni passano, neanche ce ne accorgiamo. Infatti, c'è anche Gianfranco, quello di Monte Oro, mi sembra, quella zona lì, no, sulla strada 127. Non so sul 10. Sì, sono sul 10, stanno parlando quelli lì. Gianfranco che abita sulla strada della 127, poi c'è Gianni e Claudio sul 10, sul canale 10. Ha poco compreso. Oia, freschino sta facendo stasera, Si sta meglio, io ci avrei messo la firma, se l'estate facessero sempre così le giornate, io ci avrei messo la firma, pensa un po'. Già si sta bene, dai, si sta bene. Si sta bene, cazzo, vera tre che ti va, due che ti va, che su gas non si può dire respirare durante la notte. La sera già si casiva. Infatti, la sera si sta molto meglio, adesso io già lo credo. Anche la notte si sta meglio, anziché avere tutto quel caldo che su di senza nemmeno girarti nel letto, sei assolato, bu. Invece quando la temperatura è come oggi, dai, anche come ieri, per me va benissimo. Ma comunque ritorno a casa, da domani mi sembra che incomincia di nuovo ad aumentare. E' importante che non si argomenti che si tregge di va, che se non si buttiamo la cuffia, quel caldo appiccicoso, affoso, mamma mia. Lo so, quello sì, quando c'è tanta umidità specialmente... È uno schifo, veramente, non si può stare. Non sai come comportarti, se ti devi vestire in un modo o nell'altro, se devi vivere dentro la vasca da bagno, ma rifrescati, ma pure in cibi da buio, a un certo punto le avete caldi e anche lì si sta male. Comunque, non siamo mai contenti, dai. No, io preferisco qua stare così, ci metto la firma. che sia così, che non venga il cacchio e nel freddo, così va benissimo. Infatti così va benissimo. Che portate lì lo hai tu? Beh, senza che do quelli senza Smith, oggi, senza quelli della Buffer, senza Smith, senza Gozo, non c'ha nulla, tutto nero, Ho capito, sì. Ho capito. VR5, là. Una cosa del genere, capito. No, vanno bene, come portate lì ne vanno molto bene. È un giocattolo, è un giocattolo. Segati un telefonino quasi, se ti puoi immaginare. Ho quanto un telefonino, appena più grande. Anzi, ci sono telefonini che sono anche più grandi. Esatto. Appunto, questi telefoni sono più grandi di portatili. Auguria, ma un bel però, mi immagino che l'altro il telefono, sicché. Manco, mi ha preso come giurelli. Senti, un telefono è lì. Esattamente 4 centimetri, 5 centimetri più mano, più lungo, dello portatilino. No, ma già vanno bene questi buffer. Quale c'hai, lo Smith o il tuo? Me l'ha caduto un buon in terra, non c'è niente nel mio. Non c'è niente, mi è caduto per terra e è sparito tutto. Tutta la numerazione della frequenza, mi si è attaccato alle cuffie, al filo delle cuffie, ed è caduto per terra, era sul comodino. Come mi sono girato, da quel punto lì non si vedono più la numerazione. Sì, già sta uscendo bene lo stesso. Cazzo, già si scendeva. Vabbè, quello sì. Però me dà fastidio non vedere i numeri. Dai. Perché come cosa è nuovo. Solo che ne è caduto in terra e il colpo ha fatto saltare la numerazione della frequenza. Però si può sistemare. Ma cosa si sistema? Questa 30 euro che fa di nuovo, che me lo comprai un altro e basta, non se ne può vedere più. E si è dato i bappizzi. L'ho tirato in casa, da l'obbiamo di sotto l'obbiamo di sopra. E cosa vuoi fare? Che poi già ce l'ho un altro, ne ho due. Però sono diversi, uno diverso dall'altro. E ha funzionato bene, dai. Sembravano giocattoli, anche se sono giocattoli. Me ce l'ho qua, la scatola, adesso vedi. Allora, il modello, sapete che modello è? Buffen, e i cromatti sono vanno Smith, Buffen 888S. Buffen 8S, così hai detto. Non pensavo che era il VR5, credevo che era quello. No, questo è Buffen 888S e non va nulla lì. Tre volte 8, tre volte il numero 8? Sì. Ma va bene, va molto bene, a voglia, sì, alla grande. Va bene. Quante fatti ha quello? 5. Ma neanche 5 ce ne ha, questo minimo ne aveva 3 watt di uscita. Va benissimo la grande, la voglia se ti sento, un bel po' che buio. La modulazione è buona, no, giù? La modulazione è più bella di quando moduli al baracchino, molto più bella, non poco, molto più bella. Vabbè, queste sono altre frequenze, sono diverse. No, proprio la voce proprio è più chiara, più pulita, perché quando muovi dal baracchino sei praticamente non QRM, no, ma sei tutto quanto, sì, è forte lì, si sente benissimo, si sente chiara, però non è proprio limpida la modulazione, invece questa è proprio bella, pulita. Che appalloggio. Andave. Vabbè. Dai. Già andare. Passi un portatile da 13. Infatti, è proprio da 13. Forse è voluto manco di 13. vabbè, dai. Tanto che solo questi canali possiamo usare. Questo da 1 a 8 e basta. Questo è il canale 7, per cui andava così. Quindi vuoi andare nell'altro canale, non puoi andare. Appunto, dall'1 all'8 si può andare in questo portatile. ne ha 8 canali, no? Si da 1 a 8 puoi andare, canale 1, canale 2, prima erano sempre l'1, ma poi siccome nell'1 a quanto sembra c'è gente che a volte lo usa per lavorare, e allora ci siamo spostati qua sul 7 e siamo già da un paio d'anni, 2-3 anni sempre sul 7. E non è stabile nessuno. Non è stabile nessuno, non è più nessuno. E questo è il problema. Infatti non è più nessuno. Anzi, prima erano in LPD, prima del BMR, erano in LPD, ma so come vedete 10 anni fa, 433.075 era la frequenza di allora. E caspita, parlavamo anche con Genova, parlavamo con un radioamatore di Genova, con chi ti portasse vini così, tutti quanti, io usurono, tutti quanti. Certo, figurati, ma dimmi una cosa, giù, con queste frequenze fin dove arrivi? Dappertutto, giusto? No, dappertutto no, perché sono frequenze che hanno bisogno di visuale, se c'è un ostacolo non vi passino, magari può essere uno pulvizzino a casa mia, se c'è un ostacolo non ci passi, magari sei tu che so io a Porta Tosa ti posso anche sentire, certo. Dipende dalla posizione in cui si trovano le persone. E quindi è come la 27, là, come l'antenna della 27. No, esattamente, con Ghita si fermi a pochi chilometri, con la 27 vai lontano, molto lontano, non è così, no, è caspita. Poi questo è UHF, capito? Questo qui è... I radioamatori che usano l'UHF hanno i ripetitori, si collegano tramite il ripetitore, si collegano, è per quello che riescono ad andare dall'altra parte della terra, si può dire. Ebbene, noi non lo potremmo fare. Così ti avvitali, ma buffonendo sì, si può fare. Non puoi trattare manco il portatilino, figurati un po' così puoi fare una cosa del genere. Cioè, devi avere la patente al radioamatore per poterlo usare. Già lo so, sì. Cazzo, se lo abbiamo noi il ripetitore, se lo abbiamo noi il ripetitore. Qualcuno che se l'ha fatto il continente, non ti credere. Con un altro, con due portatilini uguali, si è fatto il ponte, si è fatto. Non è che non se l'ha levato, tanta gente, però se si scoprono sono problemi, È un casino, È un casino. Un casino sono queste frequenze. Purtroppo così, se non è così, ci non venire di possibilità di andare in certe frequenze, per cui se poi studi ti devi riempire di apparecchiature e soprattutto di antenne, perché se non hai antenne e hai le apparecchiature non vai da nessuna parte. E Vivone, soprattutto di là, giù, soprattutto di là. Se vuoi andare alla grande, sì, se vuoi uscire alla grande, devi spendere un bel di là. Poi deve avere il tetto a disposizione, secondo dove abiti non le puoi nemmeno piazzare queste antenne, come fai? Non te lo permettono nemmeno quelli del condominio. Uno, vabbè, se è in casa sua, vabbè, lo può fare. Però a me sinceramente vedere tutte queste antenne sul tetto mi fa un schifo. Non mi piace nella maniera assoluta. La giocava della manufattura, io mangio un po' sulla Game Master, ma che suo motivo? Perché al manco è solo una canna da becca e basta. Sì, a vedere no, non va bene neanche, avere troppe antenne sul tetto, cazzo, manco la centrale, no, antenne così. E infatti, oltre al rischio mi, deve pensare pure al rischio. Quando bisogna. Abbassa per i volti. Non è. Ciao Mari. Non fatteli, no. Poi è meglio tranquillo, vai. Che poi tutto sommato, a pensare che ne pagherà bene, andai, date per questi. Sono peggio di lui. Già lo so. Giomari, buonasera, In compagnia di Giulio Lollaro. Ciao Mario, buonasera anche a Giulio. Dai, mi sto ascoltando, mi sono inappalato i più parenti di Roghi, gatto, che c'è un macello. Ciao Giomari, ciao. Vabbè, appunto, stiamo proprio bene così, non so se hai seguito il discorso, Giomari. Perché c'ho il muratore, capito? Stanno finendo, per cui ci ho facendo un po' di pulizia, va. Mamma mia! Mamma mia, le tedesche vanno a toccare. Io li chiamo così, i muratori. Mamma mia, le tedesche sono arrivate. Vabbè, ma quando bisogna fare i lavori, bisogna fare e basta, certo. Ci mancherebbe altro. Va bene così, si fanno i lavori quando bisogna farli. Se no, come si fa? Andare avanti. Avanti, Emanuele. Così è. Quando ci sono i muratori, la polvere, anche se copri, la polvere va dappertutto. Ma è così. Specialmente quando bisogna, quando fanno il bagno, rompono e balle varie. Infatti, e non solo quando stanno lavorando. Dopo che tu hai fatto i lavori, hai pulito tutto bene, ma bene veramente, alla fine, infine, dopo un paio di giorni ti accorgi che c'è ancora polvere da togliere. Perché? Perché rimane in aria e non si vede, non te ne accorgi, però poi cade, si abbassa e allora te ne accorgi che c'è ancora polvere. Per un po' di giorni c'è sempre così, funziona così purtroppo. Vai, Gio Maria. Vai giù, chiacchierate, dai, io sto facendo qualcosa e sto aiutando qua, vai, già vi ascolto, dai. Ok, Gio Maria, d'accordo, va bene, è così, Manuè, è così veramente, amico. Quando tu pulisci sembra che hai pulito bene bene, però poi ti rendi conto, da un giorno all'altro, ancora per un 3, 4, 5 giorni, senti sempre qualcosa della polvere, lo vedi addirittura, perché ti si deposita sui mobili, nonostante che è pulito bene, hai lavato per terra, hai fatto tutto l'ultimale di bianco, hai spolverato tutto, però in aria c'è sempre qualcosa, e dunque rimane la traccia anche dopo 2, 3, 4 giorni. Sì, la polvere va da tutte le parti, non è utile che stai lì a... Hai più guarda a fare, abbono un poco, d'ora, di giri, e si forma attorno alla polvere. Ma è così, quando ci sono questi lavori qua è normale. È normale che la polvere si forma da tutte le parti. Anche se copri bene, la polvere passa lo stesso. Va lo stesso. Da voi, Gio Maria, se vuoi rugami, ce li do con rugami, con lo spolverino. Vai, è indaffarato, ma non si piglia che è indaffarato, è una lunghia. Lo so, i lavori bisogna fare, perché bisogna fare, ci mancherebbe altro. Anche perché la gente deve lavorare, certo. Però, per tanti milli, per tanti voti, per tanti milli, si deve muri. Ma nel senso che, poi però quando se ne vanno lasciano tutto bello, a posto, finito, tutto visto, sì. Ma quando sono travagliati mi dà di mille, ma che dai. Già lo so come funzionano quando ci sono i muratori. L'ho fatto anche io, l'ho fatto anche io e so cosa vuol dire. La roba, quando inizi a spaccare, a fare, pare che... Chi non è nuda, magari ne sa faccia un muro, cazzo pare che ne rampa un palazzo. Infatti è così. Tu notami, se vuoi fare un fosso, tanto per fare un esempio, no? Ne cavi tutto il garaggio. Da voi con chi si mettesse il garaggio, lo tappi, lo fosso e non abitasse più. Il garaggio che ne hai cavato non abitasse più dentro. Pensa tu. Vabbè, eppure sono da fare lo stesso. Se devi fare i lavori, li devi fare sì. È inutile la polvere la si buca, la biuva. Certo, la si toglie. Ma alla prima lavata non la elimini completamente. Sempre qualche giorno dopo, alla seconda, alla terza lavata, magari sì. Ma alla prima lavata non la elimini di sicuro tutta la polvere. Sì, mamma, cazzo, già bugio, ma anche le giornate si stanno accorciando, mi sa, l'altro mese mi pare già un bel orario, no, o giù? Allora, a ottobre, allora, certo, alla fine di ottobre, verso la fine di ottobre, certo, le giornate hanno accorciato molto, ma la sera all'8:30 è già bugio, prima a rinnovamento per ancora lui. D'altronde così. Tu figurati quando cambia l'orario, no, 8:30 no, alle 5 già buio. Quando piove specialmente, mamma mia. Ma che aveva detto che l'orario lo lasciavano sempre così, boh. Vai due a comprendere. Un po' dice che lo volevano lasciare sempre così, un po' lo cambiano, boh, si comprende più nulla. Ma si intende di tante di che cose. Addirittura stavano pensando di non metterla più l'ora legale. Quando ritorniamo normale, no? Allora a solare, stavano addirittura all'inizio di quest'anno, stavano dicendo che probabilmente non sarà più fatta l'ora legale. Si può immaginare, invece secondo me è una comodità grande, è grande perché tanto le giornate sono grandi, sono lunghe e poi allo stesso tempo si risparmia anche un sacco di corrente elettrica. Appunto, si risparmia sì, ma vai due a comprendere, ognuno dice la sua. Un poco disegnare una cosa, un poco disegnare un'altra. Ehi, vabbè, siamo italiani, siamo fantastici. Ma un bel me. Bravo, dai. Manuel, io ne scendo giù, dai. E così faccio compagnia a mia moglie. Che sono già qua, ci sono più di un'ora, ci sono qua davanti al baracchino, stavo ascoltando. Prima sul 10, adesso ho commutato sul 23, non ve ne sciuno, né un lupo né l'altro. Babbo, ci sentiamo, Manuel. Grazie per la chiacchieratina, dai, alle prossime. Ciao, ciao, ascolto il finale e chiudo, vai. Ehi, ciao, giù. Buona serata, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo tutta le prossime. Ciao ancora.